parte Giuseppe K, forte e chiaro. K, ma qualcuno, cosa importante la senti Giuseppe? È importante oggi Antonetti, e non che ha della tutta e un mezzo casino oggi, tra portanti, portantisti e cosa che si è aperto, guarda, dove ti giri senti spagnoli oggi, c'è un bel di propagazione. Tutto un caos. K di positivo Antonetti, e non me lo ricomprendo più nulla. Attento, Giuseppe mi pare capire, mi ascolti. Avanti l'amico, da questa parte Giuseppe, K. Buonasera, pensavo che non mi ascoltavi. Sì, avanti, ti ascolto. Buonasera, dai. Come sta andando questa radio? Beh, diciamo che sta andando abbastanza bene, dai. Capa, io sono in via Pascoli, tu dove ti trovi? Buona Sacro Cuore. Ah, allora siamo vicini. Vicini. Capa, invece la tua amica a che zona? Vicini, te la via da due, tanto, avanti a Antonetti. Capa, sei un po' più basso, va bene. Siete in QTH? K di positivo, lei sicuramente in barra mobile, Agostino. Sì, K, sono con fuoristrada qua vicino a Ricco e via Pascoli. K, un po' di strada grigio metallizzato l'ho fatto. È più scuro. Magari ha detto che sta facendo appena sta ombreggiando, diciamo, dai. Un pochino di scuro già ce l'ha, così. Ecco qua. Va bene così, dai. Allora mi guardate. Kappa, io il periscopio sul tetto, Antonè, io il periscopio sul tetto, non mi passa sotto il naso né niente qui quando sono nella mia zona. Kappa di positivo. È bravo Giuseppe. E bisogna fare, Antonè, sempre sul cingalacqui, perché io di tesse per passare qui nella mia zona ne ho distribuito poche e adesso voglio vedere chi riesce a passare qui. Sto tenendo d'occhio questo per il strada blu che di via Pascoli. Ascolta, ma Gianni non più ruolo, avete sentito? Passagli il Mike, magari lo senti, dai. Eccolo qua, come per magia Agostino e Agostinello e la Ragustelle, avanti. Buonasera a tutti, dai. Avanti, Pierpa. Magari vale mortacci. Namo ragazzi che devo ritirare il periscopio da sopra al tetto, che mi costa un pacco di soldi movimentare tutta questa strumentazione, mannaggia. Ho messo in funzione tutto per potervi scovare, mannaggia. Dovevo arrivare Gianni. Aspetta che te lo chiamo, Gianni. Emmo, eccomi qui. Grazie per avermi fatto entrare, dai, buonasera. Kappa, c'è il signor Agostino dietro casa che deve conferire con lei, Ine. Avanti. Gianni, mi hai scoperchiato. In che senso? Mi hai fatto scoprire, non mi avevo riconosciuto. Sì, Giuseppe, veglia. Giuseppe, ma non la riconosci la voce? Guarda, io la voce di Vela cominciato a coso, a modulare mare. Sì, adesso mi ha riconosciuto. Se poi non ti manco più ti ho parlato che poi è entrato Antonello e sei stato zitto per non farti scoprire, mannaggia. L'altro giorno mi hai detto che ho parlato troppo. Poco fa sono rimasto buono buono perché è entrato Antonello. Antonello c'è cascato, Sì, vai tranquillo, vera. Oh, Antonello, e quando gli ho detto che avevo il periscopio che gliel'avevo puntato sopra su quella macchina grigia? Almeno il colore l'ho azzeccato, vero, vera? Il colore ce l'hai azzeccato, vai. Gianni, buon, non si può fare più una bufolatura di sciuro. Io stavo facendo il momento per fare. Ho sentito, avete sentito Gianni, sono entrato, non è che sapevo nulla. Ero proprio nel momento stavo accendendo. Ma la schifo, la provo i pantaloni in mano per background. No. Vabbè, cosa gli ho fatto al microfono? Io sto facendo meglio. Fatto a me. Ma niente, ho sostituito solamente la batteria. Come vedi, il consiglio mio è stato utile. Sì, capa, grazie. Ma figurati. Capa. Andavè. Avanti, Giuseppe. Grazie Gianni, dai. Sì, vivacchia, dai. Nonostante l'uscita di oggi continuiamo a vivacchiare. Mannaggia, io cosa dirvi? Perché non siete venuti anche voi? Voi io non sapevo la verità, che a parte che abbiamo visto questo brutto tempo all'inizio e non c'è ispirato a uscire, dovevamo andare a Ucchia. E però non c'è ispirato. Comunque quel posto lì io sono già stato, se è quello dove ci sono gli animali. Ma sai la gente che c'era di Sassari, abbiamo trovato altre due famiglie di Porto Torres, ma ci siamo divertiti alla grande. Lo so, anche quando andavo io di Porto Torres, di Cloache, ce n'erano. Un paio di volte che sono andato, c'è gente che frequenta proprio e ci va spesso. È un bel posto perché ci sono delle graticole più grandi di te, la legna sotto, non manca nulla, ci sono i bagni, c'è tutto quanto. E confermo al 100, anche perché poi io lì su sono andato. Ciao a tutti. Ciao, quello, ma non sono la nonna. Quella era una finta, Gianni. Quella era una finta. Ma è una femminuccia. È una femminuccia lei, quindi deve stare lì a scocciare. Sì, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, bella, ciao, buonanotte. Vai a letto, vai che si stanca. Si è addormentata un pochino in macchina già, rientrando un'oretta, però ha pioso molto. Chi già da questa sembra che stia appena iniziando la giornata per lì, e guarda che si è fatta a pezzi lì, correndo, facendo, saltando, addirittura l'ho portata anche a vedere quelle cascate che ci sono, e c'è un pezzettino di strada da fare, però ti dico che oggi era troppo bello per fare lì. C'era bella giornata, Giuseppe, non ce n'era vera. No Gianni, c'era un pochino di vento, se devo essere sincero, però poi usciva il sole e il sole era caldo. E ti devo dire che io le guance c'erano anche belle rosse ancora. Ma avete chiesto prima, perché non posso demandare della forestale, bisogna prendere, chiedere diciamo il permesso, vero? Negativo Gianni, negativo al 100. Noi siamo arrivati lì di buon'ora e ci siamo presi, ci sono 1, 2, 3, 4, 5 tavoli grandi, ce ne siamo presi uno e dopodiché abbiamo cominciato a fare il fuoco, poi ha cominciato a arrivare gente, dice ma come ci organizziamo? Adesso c'è cosa da organizzare. Sì, un attimo. Ho fatto un giro di braccia grande quanto quel barbecue di giù, già, figurati. Non è un giro di braccio per me. Cappa, Tu pensa che io quando sono andato c'era una famiglia di Broaghe vicino, un'altra di Porto Torres, siamo messi proprio di fronte dove ci sono i barbecue per arrostire. E con questa famiglia di produttori di Proaghe abbiamo comunicato molto, ci siamo divisi la roba da mangiare, noi avevamo gamberoni, loro avevano carne, insomma ci siamo scambiati, abbiamo gustato un po' di tutto, abbiamo bevuto insieme, abbiamo giocato a pallone tutti insieme, sembravamo amici da chissà quando. La stessa cosa è successa, cioè lo stesso gemellaggio è successo stamattina, perché ho trovato gente di Sassari, addirittura del centro storico, gente di Porto Torres, assaggia questo, assaggia quello, ma vedi questo, io poi stavo preparando anche dei gamberoni arrosto, e dopo che ho fatto tutta la carne e cosa, e niente, siamo fatti veramente bene. Mannaggia, se eravamo riusciti a organizzare, guarda, un paio d'ore, Gianni, ti dico la verità, ma anche per i bambini, non tanto per noi, c'è un'aria così bella lì su, guarda, che è uno spettacolo. Sì, possiamo andare qualche volta, possiamo andare tutti in greffo e arrostire, portarci roba a arrostire, se è così, perché noi quando siamo andati, Antonello, questo nostro amico che praticamente fa controlla i lavori dell'ENI, era andato lì a controllare, ha visto questo posto e ha detto ascolti, ma per sabato si può venire, sì venite tranquilli, venite a presto perché così vi prendete i tavoli migliori, e così, ma forse gliel'ha detto così, boh, non c'è bisogno di chiedere, quindi vabbè, comunque c'ho anche le fotografie. E quei due tavoli che ci sono di fronte, quello di destra me l'ho messo io. Tu ti verrai, Gianni, che noi siamo la bellezza di quasi 22 anni che abbiamo di amore. Appaga. C'è anche Aquila, e c'è anche su alla Madonna di Castro, però lì in particolare ci sono i tavoli con le panche e ti devi portare la roba pronta da casa, però c'è una vita stupenda. Io da lì oggi ho provato a farmi chiamata ed ero proprio sopra, in cima vedevo tutto la diga, diciamo, di Tula. Però ho sentito che sono arrivato qui a Sassari, anche se più, però non ho sentito nessuno, perché mi ha detto Gianni K2 che mi ha sentito lui facendo chiamata. K, dice che ti sentiva piccolo ma ti sentiva. Io ci ho provato, mannaggia, soltanto che qui quando sono arrivato qui a casa ho portato le 48 lecce, il monti, quello chiuso in barra pesante, e non mi sono accorto che avevo tutte le specie a zero, Gianni. Ehi, Giuseppe. Acciugavino, e vabbè, come sono dei miei posti, dai, facciamo girare, chi c'è rotta? Ecco. Avanti, Falchetto. Capito Giuseppe cosa gli è capitato, Gianni, hai sentito? No. Lo squerci tutto abbassato, coro mio. Per quello non sentiva nessuno. Allora. Falchetto, io stamattina alle 9:15 mi ho svegliato mezza macchina. Ma io ti ho detto, guarda che problema è il tuo, non è il mio, Giuseppe, guardati la verità. dicevo, è strano che loro ti arrivano con lo scala e io almeno un 3-4 tacchetti non ti arrivo, cioè mi sembrava strano a me. Chi è che ti arrivava con lo scala, Giuseppe? C'era Natalino che mi arrivava a porte, c'era Mario Mansell che mi stava spaccando lo smitter, e c'era Giura che mi ha fatto fare tre giri di smitter lo stesso, perché io ero lì a passare due. Ah, non a Usa, Ma no, ero lì a passare due aspettando quel imbosciato di mio cognato che si facesse vivo. Però deve essere che qualcuno, prendendo qualcosa dal cruscotto, non so come sia successo, mi ha toccato lo squelce, è arrivato a un certo punto qualcosa non arrivava più come l'ho sentito io prima. E già. Proprio non è coso, che adesso non mi viene il nome, dopo mi è capitato, la lancetta del coso non si muoveva quasi. Cose che succedono, là. Magari uno non ci pensa nemmeno perché dà per scontato che è tutto a posto. Ma ho controllato tutto Gianni, meno che quella mano fuori da via, te l'immagini a razza di fregatura. Adesso stasera come sono rientrato a casa, no? Quando lo stavo svoltando dalla macchina ho detto pure non devo venire a capo di questa sera qui. Vado a toccare lo specie, vera, tutto quanto l'ho fatto verso sinistra. Giulio, un quesito l'ha fatto stasera, quando noi eravamo a Porto Torres, con che apparecchio stavi uscendo? Allora, prima ho usato uno e poi l'altro Gianni, però quando eravate al porto era con l'altro, con quello blu. Gappa, una radio favolosa. Sia con uno che con l'altro, consigliati di aiutarti. Guarda, io addirittura questo 48 in punti, me ne sono anche, come ho detto poco fa, me ne sono anche un pochino innamorato, perché si è sposato benissimo con questo microfono. Se io ci metto quel microfono lì nel Midland, che praticamente sarebbe con gli stessi tuoi attacchi, perché c'è l'up-down, quindi probabilmente ha gli stessi tuoi attacchi, quindi non è difficile manco sapere come sono i fili, basta prendere uno e vedere come sono collegati, si sa. Lo so, io addirittura ho quello originale del 48 dell'Excel, quello chiuso in barra pesante, quello l'ho fatto modificare di capsula, quello esce una bomba stesso. Anzi, adesso ti ho fatto niente, guarda, dammi 2 secondi di tempo, sta con questa box e ne ha parlato. Magari te lo mando un annetto, non ha tutte queste cose qui, però sono sicuro che il radio esce di meno. Aspetta Gianni, che approfitto giusto per fare una prova. Gianni, e io giusto ne approfitto a vedere come mi ascoltavo giù a farbattando. Falche sentivo, il più forte che sentivo era Giuseppe, di radio, di tutto. Copriva Graziano, copriva te, perché a volte volontariamente mi siete sovramodulati. E passava sempre Giuseppe. A te non ti sentivo molto forte quella zona, dove eravamo perlomeno, nelle curve di che portano poi al porto, lì era un po' zona d'ombra forse, poi vi ho ripreso bene dal porto, dai. Cappa, ma tu quando vai a lavorare mi senti bene? Sì, quando vai a lavorare sì, ma ci sono delle zone a produttore che sono d'ombra, capito? Tipo la zona del porto, la zona che va verso il porto, tutta zona d'ombra, perché quando vado a pescare io parlo, mi sentono, ma non mi sentono fortissimo, da lì poi mi dicono che sta quasi una bomba, perché sono uscito da quella zona. Ecco, avanti. Allora Gianni, e questo è il microfono, quello piccolo, l'originale dell'Excel Multi, quello che avevo preso su a Serra Secca. Questo è modificato di capsula, come ti arrivo di radio? Diciamo una radio normale, ma non è molto potente, la sento un po' qua sinceramente, però vogliamo sbagliare, è comprensibile. Cava, alla bene nera, cambio il microfono. nome 1000. Kappa, Kappa, eccomi qua. E questo come va già? Prova per qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sto parlando, non metto l'istante. Se va bene. Questo lo riconosci cosa è? No. Non lo riconosci? No, no. Ciao, io per un attimo l'ho sentito, dico la verità. Per un attimo l'ho sentito, sembrava in banda laterale, invece poi ho girato e sicuramente stavo parlando sul sì. Sul sì. Chi era? Non ho capito chi era, perché stava aspettando di parlare con i girati. Ho sentito un po' fatto di bizzo. E giornale, non lo so chi è. Ho fatto il tempo a girare. Sì, vabbè, magari ce ne sono conto di essere girato, magari non lo so per la girare. E chi era? Che ne so, che ne so. Praticamente ho girato, stava chiudendo, stava finendo di parlare, dai. Non voglio fare nomi, ma diciamo. Un acchito l'ho avuto, ma non sono sicuro. Cava. Chi vuole un pezzo di colomba si può accomodare. Ma ne ho mangiato, ne ho mangiato già le ali, la coda e il collo. Questo Giuseppe sa cos'è sta a fondo. Cappa, scusate un secondo, ma ho le mani tutte in pasta, un attimo solo, Cappa. Io le solitate quando vado a questi arrosti ce la sera non mangio nulla, Ma voi sentite sotto quello che sento io? Cava. Ma è arrivata una cozzolata, non ve ne culimmo. Attento, l'amico Espanol. Provo da questa la combinando la passione del canale 27015. Vamos a verso la scusando. Hola. La Italia che va chiamando, per un prendino, per favore. Perché stiamo modulando sempre sul 5 e non sul 10? Io sul 10. Giuseppe sul 10 e Bertano sul 10. Bianco e nido, puro. Allora, altre immagini già, dicevi. mette in moto con lo casco, e tu con il furgone, e io c'ho la moto, come ce l'hai tu ce l'ho io. Cazzo, ma non guardare, se c'è anche la parola macchina, ma se c'è anche la parola moto. Ma che colore vuoi, a mani in moto, va? Tipo che ha la bancarella giù, quel senegalese, che si piazza la rotonda, io lo chiamo Barri di Bocco, anche metto pienottolo. Si chiama Barri di Bocco unito quello. Cappa. Ammazza lì in barri, arrivi così. Ebbè Barri di Bocco. Tu conosci pure a me. Mi conosce bene, bene. Fammi il sassarino che non è. Ebbè già, come ci andiamo? Cappa, già è lui allora. L'ho beccato anche domenica scorsa. Cazzo, ma è una scena, È molto simpatico, e fa un bel di soldi per quello, perché è amico di tutti. Cappa, la carina ha detto, aiò, mi, a me da casa ha già arrivato il bocciafoglio, mi, cazzo, fa vedere, la salita sono meglio di me. Mi, compà, ha già arrivato in casa la gente che si fermava lì, ecco. E lui con queste quattro battutini c'ha sempre la bancarella piena. Sì, sì, è vero, è vero. E da poco non c'era, è morto il fratello, la sciapusa. Cappa, mi ha detto che è rimasto quasi 2 mesi fuori, sì, sì. Beh, l'ha detto anche a me, mi ha detto che praticamente ha dovuto spendere un bel per portarla a morire là. Cappa, mi ha raccontato anche a me, mannaggia, sono cose un po' che ti toccano, dai, perché adesso lasciamo perdere colore della pelle, religione, cosa, siamo tutti sotto questo cielo, dai, e quando succedono quelle cose lì, ma... Oia, se non ne aveva bisogno non era stato qui manco lui, mi già, e qui la chiudo. Beh, no, lui mi ha detto che tutto ciò che guadagna lo manderà, ci ha detto da noi le famiglie sono diverse da qua, vivono tutti insieme, zii, nonni, nipoti, pronipoti. Chi è fortunato ad avere il lavoro deve contribuire a tutta la famiglia. E lui ha detto, se io avessi tenuto tutti i soldi che mi mando, sarei stato ricco a quest'ora. Cappa di positivo. Ho sentito un colpetto di importante, che vuole entrare sul 10 e il benvenuto. Avanti. Sto dicendo che praticamente adesso a maggio, mi già arriviamo a maggio adesso, sicuramente se non se ne vanno c'è quella bancarella che vedi tu, quella lì, quelli ci stanno fino a maggio. Se a maggio non se ne vanno, mi fanno la solita retata, guarda in finanza dei vigili urbani. Che addirittura ti ricordi l'anno scorso che poi ho visto gli orari dei vigili urbani di Sassari, non potevano eseguire niente, invece anche loro hanno fatto i sequestri insieme con quelli di finanza. E quest'anno sarà la stessa cosa, Anche perché quella zona lì appartiene al comune di Sorso. E allora cappa, quella era parte di là, soprattutto loro lo rispettavano e cose, infatti ho scritto anche il giornale, e mentre invece i urbani si erano interessati a una cosa che non rispettavano di Sassari. Comunque ogni anno a maggio glielo fanno fino a fare il Porto Torres, glielo fanno che quest'anno se non se ne vanno prima di maggio. Cappa, comunque sempre meglio che vadano a delinquere da qualche parte. Stanno vendendo lì tranquilli, non stanno disturbando a nessuno, e i primi siamo noi che ci andiamo quando c'è qualcosa di interessante per qua. Sempre meglio che vengano di qua a casa tua in senso buono, no? Visto che siamo qui tutti assieme, come posso dire che è meglio che non vengano qui a casa mia, dico io, no? Quando sono senza lavoro e per causa della disperazione sono costretti ad andare a rubare. Invece così, cerchi di barattare il prezzo, glielo tiri, fai quello che vuoi, ma io vedo che non stanno facendo del male a nessuno. Poi ognuno è libero di interpretare liberamente e democraticamente questa storia qui. Anzi, attirano la gente a passeggiare lì e fanno comprare il gelato alla gente, perché mentre che passeggi ti compri il gelato, ti compri le noccioline, ti compri il coso, ti compri l'altro, e quindi lavorano anche i commercianti che ci sono vicino, chi va al bar, chi si compra la pizza, insomma, passeggi, guardi le bancarelle come si fa e poi compri anche qualcosa. Sì, ma io ce li lasciano e fanno niente. Poi quando arriva verso maggio la stagione del mare, la cosa, e vanno e fanno tutto quello che gli fanno, e fin dei conti c'è gente lì che ci ha rimesso anche, e che fanno i soldi, però poi ci rimettono tutto, anche perché sequestrano tutto. Se tu vedevi l'anno scorso furgone di cose li hanno portato via, e così non si fa, cioè prima li lasci, lasci fare ancora fino a quanto vuoi tu, poi addirittura vai a fare queste cose, almeno va bene, scacciali via, metti, affiggi dei cose che da tale data non si possono mettere più, insomma sono cose più cordiali da fare, invece li lasciano finché vogliono loro e poi quando lo vogliono loro fanno queste rettate così, e sono sempre, diciamo che le forze dell'ordine non è una cosa giusta, perché lasciarli fare, poi invece quando vuoi tu li mandi via. K di positivo, perfettamente d'accordo con te al 100. Anche perché la cosa che mi dà più fastidio, che non so se poi avevate sentito tutto l'ambaradan che ne era venuto fuori, e la roba sequestrata poi se la dividono tra di loro, e quello è la cosa più scorretta che ci possa essere a questo mondo. E allora. No, io già l'ho vista la finanza bruciando CD, cassette, per queste cose la discarica. Comunque dico la verità, ho visto un CD, c'era scritto ballabile, e gli ho chiesto se potevo prendere, ma ho detto vabbè prendilo uno, ma non ti fa vedere nessuno. La verità me l'ha fatto pigliare. Va bene, ma quello può essere giusto un caso. Ma era venuto fuori anche, non so se vi ricordate, anche fuori alla televisione lo scandalo della roba sequestrata, che la gente, questa gente qui si portava a casa. E poi, tra parentesi, mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo, e attenzione, non voglio tirare in ballo nessuno, però i delinquenti sono loro quelli che vanno a sequestrarli alla raccosa, non questi poveri cristi. Mi avete capito? Perché conosco molto bene come funziona oltretutto il sistema lì dentro, quindi figurati, addirittura è venuto fuori il servizio, ti parlo, sarà, adesso non so se l'anno scorso, che l'hanno fatto vedere alla televisione, la roba sequestrata di questa povera gente, come se la dividevano, gente che aveva già uno stipendio sicuro. Basta, quelli dovrebbero demolirlo e fare quelle di demolizione, a meno che siano d'accordo, perché io so come funziona, quando la porta alla discarica, anche droga ci avevano, l'hanno bruciata lì, quando la porta alla discarica fanno fare un foglio di demolizione, un foglio come loro stanno, stanno bruciando questa roba qua, capito? Col consenso, la firma del quello della discarica, e poi del guardiano della discarica, e poi in più mettono la firma loro, capito? Demolizione di tutta questa roba qua, e c'era anche fumo in mezzo. Avete sentito, avete visto il giornale, adesso non mi ricordo se della settimana scorsa, che fine ha fatto la droga che c'era nelle cose di sicurezza della questura? E poi la droga che c'era nelle cose, avevano un momento in dia, se non mi ricordo se era nelle cose di tribunale, cancelleria o dove balla la tengono, c'era un articolone sul giornale, che fine ha fatto quella roba lì? Ah, quella che è sparita non sa dove è. Stranamente no, tutti non sanno, tutti fanno, tutti rubano, tutti prendono, tutti si arricchiscono alle spalle nostre, alle spalle di quei poveracci, però nessuno sa dove, e tu l'hai presa, l'ho presa io, l'hai presa tu Gianni, Si gioca oggi, grazie, non sai, dice che addirittura, io l'ho letto, dice che non sapevano proprio neanche da che parte iniziare a cercarla questa roba qua, perché non sapevano proprio che fine aveva fatto, dove era stata dismessa, ma io non credo sia stata dismessa da nessuna parte, credo che abbia viaggiato tutta l'altra parte. Oh, riecco, stato usata stamattina. C'è una schiena appesa, in più l'ho fatta. Ma mi hanno fatto una... La passata mi hanno fatto su un gas di gare. Ma tanto mi fuggiva di favoletto e facevo... le cose, ma... Ma... facevo uscire di testa, ecco, non si faceva prendere. Cava, cava. Chiuse. Avanti, vela. Sì, eravamo rimasti a quella storia là. Comunque, Pierpa, se l'hai presa tu dimmelo me. Se l'ho presa io poi magari lo dico a te, o se l'ha presa Gianni lo dici a noi due. Perché di chissà cosa, le chiavi ce le hanno loro, ci sarà un responsabile, ci sarà un, che ne so io, un addetto, un qualsiasi cosa. Oppure la cancelliera del tribunale, avete sentito? 70.000 euro di gioielli di persone che sono state arrestate. Che cosa ha fatto? È andata nel coso di quelli che comprano l'usato, no? Se li ha ben versati, se si è recuperato pian pianino, no? 70.000 euro, si ha preso qualche appartamento, no? Però in compenso, al posto di mettere i gioielli veri, ha preso dei facsimili, però era solo bigiotteria. E anche in macca di Maria Eda. Esatto, vai a turbilli. Appa. Aspetta, Ruggero. Mi ho fatto una sverginata dei canali e c'è propagazione nel 16. Ho trovato Falchetto mandando un bacio a tre parti. Dimmi. mette il polpo. Ah, c'è anche buco. Io, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ah, io a vedere. Sta andando. E sta dicendo me. A me? Allora, vai avanti. Attenzione qui il buco che ti fa chiamata per la cicca. Non mi hai capito, Massimiliano. E stavo dicendo in confronto all'altro paracchino mio? Anche in confronto al mio 48, questo diciamo è più perfetto, là. Questo mi dà giusti segnali. Cappa, è per quello che mi sono azzardato a dire poco fa, questo di smettere le bugie non le dice, perché il 48 ogni tanto mi dà qualche, perché quello è digitale, no? Questo è proprio con la freccetta e questo segna quello che è Massimiliano. Chiedo scusa se mi sono espresso male. No, non c'è problema, Giuseppe. Anche il mio, il 48, sia questo normale che ho a casa, quello che c'è in macchina, sono molto generosi come Smith, capito? Invece questo, diciamo, li dà più perfetti. Non c'è problema, il cavolo. Cappa di positivo. Comunque, Vela, qui l'ultimo passaggio che hai fatto, bello, eh? Il radio, bella, pulita, forte, potente, 9 più 30, complimenti. Cappa, vediamo se sono riuscito a battere anche Andrea le stazionarie, dai, non tocca manco uno, vediamo un po' adesso con le stazionarie perfette se ci siamo, Guglia. Ma come va bene Pietro? Aspetta. Non sto andando con i fatti giusti, ora. Bravo, mi sa che c'è Gianni, che sei? Sì, sì. adesso sta ascoltando. Voi sentite, tanti auguri, buona Pasqua a te e famiglia. Altrettanto Gianni, e tu, sto bene, sto bene. Va. Il tempo è che un po' ci ha fregato questa volta. Ma adesso è calato il vento, adesso sta meglio, si sta, dai. Ma in serata è calato il vento. Però stamattina era troppo vento, non faceva andare al mare, dai. Ci sono stati degli anni che ci siamo fatti anche il bagno a Pasquetta. Ebbene sì, hai ragione, però quest'anno è andata così. Ma va bene lo stesso, dai. Ogni anno di avere fortuna. No, ma questo microfono ti si addice, Gavi, lo sa. L'ho capito già. Questo tipo di microfono ti si addice. Questo è un microfono on the road. Che microfono è? L'MV più 5. È K. Ti si addice molto a te. Ia, che palo avanti. Gianni, segna questa, sei un pezzettino di carta e una penna. Hai compreso? Zitto, il buon re, la casa sta rosicando. E la vuoi dire a me? Allora, sotto sta sempre mandigando. E sicuramente sta mangiando un arancio. No. Questa carta si rivela. Da? Gappa. Ma lui è ghiotto di arancia. Io me lo porto là e arancia, che voi ha detto mangiati la mela, zitto. Mamma mia, ne ho beccato uno io oggi all'ora di pranzo, tipo Pierpa. Dio mio caro, a Rosario Zucco come ti tazzava a casa di Fina. Ciu. Più buono è, più buono è, fate più bella, lì che lo cuore. Mamma mia cara casa, la migliera era bello comunque all'aspetto, bello, ti sto dicendo, me l'ho sbucciato anche con gusto, me lo sono tutto preparato, ma niente mia cara. Io sono faccio mia assisa, quelli rossi che hai detto tu. Ma non sono quelli sardi, quindi sono siciliani. Mangia che si rimidi, quello che ti dico io, hanno tutto l'altro sapore, ma sono belli di noti, molto buoni quelli. A me mi riportano d'accordo, da Riola Sarsa, ma devi mangiare questi aranci, c'è una buccia fine, ma sono rossi fuoco. Allora ragazzi, dai, riprendo io, vi lascio un capito che io vado a dare una mano dentro, dai. Ci sentiamo più tardi se coincide, se no io per il momento vi saluto con una buonanotte. Vi lascio in compagnia di Calvino. Massimiliano, scusa un secondo. Lei arriva, Giuseppe. Sì, veloce, ma una mano per aiutare o una mano per mangiare, per assaggiare? No, do una mano, una gliela do e con quella che le do si aiutano, con l'altra mangio. Cappa di positivo, fratello, allora ci siamo capiti al volo. Buon proseguo, Massimiliano, ciao e alla prossima. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Massimiliano. Cappa, dai, io faccio un attimo di bianco che devo andare in bagno. Ancora. Cappa, vai. Ciao Massimiliano, ciao, ci risentiamo alla prossima. Non so se si è capito, ma sono ancora mangiando. No, tranquillo. Oh, Vela, mica si sente che stai mangiando, vai tranquillo. È la stessa cosa di quando hai beccato a me con la colomba in bocca. Carissimo. Oh, ciao, ascolto, quando hai finito, buttaci via tutto. Falchetto, ci sei? Ma su chi si è fuggito al sito, non si intende roba di cuoco, niente. Aspetta un po'. Ascolto. Quando quello trova roba di femmine si ferma sul canale. prendiamo per il sedere. Che vuol dire? Non mi da voi fare un culo. Così è. Ah. ascoltando, stavolta parlando male di me mentre mi mettevo il pigiama. Hai sentito che non passi tutto, sì? Senta città, senta città, prendi le chiama, chiave da terra. Thank you. non me l'ha sentito un giorno, povero. Ho visto che non ci va bene. Giusta. La ragazza. Sopra ci tocca. Così. Cappa di positivo, ragazzi, sono qui che scuccio. E beh, al 16 passato il sì. No, no, assolutamente, sono andato a guardare l'orologio in cucina, 10-5 sono, infatti, avevi ragione. Te l'ho detto io, altri 5 minuti, poi me ne vado tutta la mezz'ora. Capali positivo, Falchè. Anch'io mi faccio fra 5 minuti insieme a te 2 metri orizzontali. E Nathalie, tu coincide la mia idea con la tua? Ma guarda, non potete viaggiare voi, no? Così è, Giuseppe. Come, Nathalie, dimmi, scusami. Ho detto che non si può viaggiare domani, così è. E noi dobbiamo girare qui in città sino alle 10 di domani sera, è vero. Avanti. Cosa stai usando, questo nome? No, sto usando un altro baraccamento. Che è successo? No. Stai usando l'altro. Con che alimentatore lo stai alimentando? Con un alimentatore che adesso non lo vedo molto bene da qui. Però dovrebbe avere 15 ampere. Perché? Che è successo? Sembra disperso. Più bello? Diverso, si trova un ruolo più strano. E quell'altro, l'HQ70, mi sta dando qualche problemuccio. Infatti ho chiesto a tuo padre se un giorno che ho un attimino di tempo mi dà uno sguardo, perché io quei 3 figli li ho saldati, però secondo me non sono idoni a quell'alimentatore lì. Ecco perché ho passato tutta l'alimentazione anche a questo qua. Poi ci sono le bananette doppie, e il visto è abusato. Cappa. Puoi passare tutti in uno. Cava. E vabbè, ma mi devo decidere uno di questi mesi di prendere un solo alimentatore, però sin quanto riesco a tirare devo tirare con questi, li devo sfruttare sino in fondo. E vamos a bailar, compañeros. Lei come mi sente, buon Falchetto? Buona la mia vita, ciao! Pure no che mi do le spagnole. Cazzo, va a pasta con Kiki, Se per quanto palazzino, evidentemente, signore, vi saluto, me ne passo in QRT, alle prossime, dai. Aguadilla 4 Guadio. Che affagata. Giuseppe, tu guardi mentalmente di chi siete. Cappa, Falchetto è già scappato su 16, carissimo. Carissimo. Professore, a chi voce la Giuseppe? Lo senti? Cappa. Senti come rulla su 16, ragazzo? Tu sei su 10. Cappa, ma lui è su 16. Io ho due apparati in funzione. Giuseppe. Oh, è ora, per la minuta. Ciao. un pochettino movimentata stasera. Giuseppe! Yeah.